Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Da alcuni anni è diventato uno dei termini simbolo della trasformazione del modello energetico. Questo termine è Energy Community. Parliamo di un insieme di utenze caratterizzate da esigenze energetiche simili oppure complementari di solito, che decidono di mettersi insieme effettuando delle scelte collegiali in materia di approvvigionamento energetico in modo da ottenere dei benefici, come per esempio la diminuzione della domanda complessiva di energia oppure la diminuzione del suo costo. Ci sono varie situazioni in cui in teoria questo potrebbe funzionare, ma la realtà è che per oggi di Energy Community se ne vedono ancora molto poche. Ne parliamo con Vittorio Chiesa, che è direttore dell'Energy Strategy Group del Politecnico di Milano, che è stato ospite da noi già tante volte e che il 3 di luglio presenterà lo Smart Grid Report dedicato alle reti intelligenti, una parte del quale è focalizzato proprio sull'Energy Community. Buonasera Chiesa. Buonasera. Eccoci qua. Allora, intanto mi pare che si possono individuare, diciamo, delle aggregazioni tipo. Corretto, noi abbiamo fatto, diciamo, alcune simulazioni immaginando delle aggregazioni tipo che riteniamo essere quelle più probabili, distinguendole in due categorie: aggregazioni che mettono insieme utenti, diciamo, omogenei dello stesso tipo, e invece situazioni nelle quali si aggregano utenti, diciamo, complementari o comunque perfetto, diversi, con dei fabbisogni differenti. Esempi classici sono il condominio, piuttosto che, appunto, sempre nell'ambito delle soluzioni omogenee, aggregazioni di centri commerciali, complessi ospedalieri oppure distretti industriali, quindi imprese che condividono in un'area, diciamo, i propri impianti e potrebbero mettersi insieme proprio per fare delle scelte collegiali, come dire, aumenta un po' la scala del fabbisogno e questo consente evidentemente di utilizzare degli impianti diversi e in qualche modo quindi poi di avere dei benefici in termini di riduzione della spesa da parte di questi utenti. Invece l'altro, diciamo, altra ipotesi è quella invece di aggregare utenze diverse, quindi nell'ambito urbano per esempio è pensabile l'insieme di condomini unitamente per esempio a un complesso ospedaliero ospitato in città, piuttosto che in ambito extraurbano per esempio l'aggregazione di centri commerciali e imprese industriali. E lì, diciamo, ci sono situazioni molto interessanti dal punto di vista degli effetti, che come dicevo sono sostanzialmente due: da un lato il risparmio in termini di consumi, per esempio sul residenziale si può arrivare addirittura sopra il 60%. Ecco, questo per esempio con una tecnologia come la cogenerazione, per cui io mi scaldo ma contemporaneamente produco energia elettrica e complessivamente quindi consumo meno energia rispetto alla mia domanda primaria. E lì Corretto. È significativo il risparmio, appunto, 60%. Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto una simulazione che diciamo si estende poi all'adozione anche di tecnologie di efficienza, cioè l'idea è che quando, come dire, un insieme di utenti decide di affrontare il tema dell'energia, in qualche modo decide anche di consumarla. Esattamente. E interessante è il fatto che poi in queste soluzioni diventano economicamente come dire, sostenibili anche soluzioni che prevedono gli accumuli. Certo, delle soluzioni più costose. Tipicamente costosa, che però qui trovano anche una giustificazione economica. Ecco, però questo sulla carta, perché dicevamo nella realtà di Energy Community se ne vedono veramente poche. Beh, diciamo, in realtà la barriera fondamentale è rappresentata dalla barriera di natura regolatoria, cioè l'assetto regolatorio di fatto non consente l'asservimento di più utenti ad un impianto di produzione. Cioè uno è costretto quando fa per esempio quella roba, diciamo, del condominio, in realtà poi l'energia elettrica non la può consumare l'abitante dell'appartamento, ma è costretto a metterla in rete e questo fa venire meno tutta una serie di vantaggi, di sostanzialmente. Certamente. No? Può usarla soltanto per le utenze condominiali. Comunque, che però è la luce delle scale, è un po' pochino. Certo. Ecco, perché c'è questa difficoltà a modificare la regolamentazione? Quali sono le controindicazioni? Il tema centrale, che è di sotto grande attenzione da parte dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, è proprio il tema un po' degli oneri di sistema, cioè questa energia che di fatto viene prodotta e consumata da uno stesso soggetto sfugge alla rete. E quindi gli oneri generali di sistema, che sono quegli oneri generali che servono poi per gli ammodernamenti delle infrastrutture, delle reti, eccetera, finirebbero per insistere su un insieme, certo, di consumatori minore. Perché... cioè più reti di questo tipo nascono, si tirano fuori, sostanzialmente i costi ricadono su un numero sempre minore di utenti che a quel punto non riescono più a sostenerli, e questo è il problema. La preoccupazione del regolatore. Il potenziale invece è alto? Voi avete fatto qualche valutazione? Noi abbiamo immaginato che ci possa essere anche una frontiera intorno ai 30 miliardi di giro d'affari complessivo per un numero di energy community che potrebbe sfiorare 24.000. Grazie, grazie Vittorio Chiesa. Grazie a voi. È tutto, a lunedì.